tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. You know I can't just a smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was. Ebbene sì, l'attesa è finita. Dopo un'estate siamo tornati, siamo tornate. Tabula rasa è di nuovo qui sugli 87.90 di Radio Onda Rossa e abbiamo una grande trasmissione di lancio e parleremo con una nostra amica, redattrice e appena nominata premio Campiello per la letteratura, quindi Giulia Caminito sarà con noi a raccontarci non tanto del suo ultimo romanzo che abbiamo già presentato pressoché in anteprima a questi microfoni, ci racconterà un po' cosa significa essere in questo vorticoso mondo dei premi. E poi avremo? Poi avremo con noi Damiano Abbeni, con cui parleremo della Notte delle Farfalle di Amy Bender, lui è il traduttore per Minimum Fax. Ed infine abbiamo qui ospite graditissimo con noi, Valerio Callieri, con cui parleremo del suo ultimo romanzo, uscito per Feltrinelli proprio a luglio di quest'anno. Se fossi il mio socio dovrei già cominciare a bacchettarti. Per quale motivo? Perché sto parlando lontano dal microfono? No, quello no, sei abbastanza vicino in realtà. Ah. Ma soprattutto perché l'ultimo romanzo di Caldieri è Le Furie. Questo no. Non è un vero e proprio romanzo. E dai, guarda quello che faccia sta facendo. Come lo vogliamo chiamare? Un memoir? Un pamphlet. Un pamphlet. Che si intitola? Questo sì che è dura, è lungo. È così che ci appartiene il mondo. Genova 2001, caserma di Bolzaneto. E va bene, e adesso sentiamo un po' di musica. Che per introdurre la voce di Giulia, un'altra bellissima voce di una donna splendida, ecco Juni Russo. Mentre mi pettino e non è la meravigliosa e mediterranea voce di Giulia Caminito che abbiamo qua in questi microfoni, ma abbiamo la mediocre voce di Valerio Caldieri, molto meno mediterranea. Giulia ci raggiungerà fra un po'. A questo punto ribaltiamo quindi l'ordine della nostra puntata, ma prima di andare a parlare con Valerio del suo libro, vi volevo annunciare anche un po' di novità, insomma, anche con DJ Zen magari la inseriamo subito in questo nostro racconto. Tabula Rasa è tornata amplificata, con una redazione un po' più espansa e con un paio di nuove idee. Dedicheremo infatti una volta al mese non più soltanto al fumetto, ma anche una puntata alla saggistica. E tra l'altro, appunto, in questa dimensione di redazione ampliata siamo ben contenti e contente. Se vorrete anche voi mandarci un paio di proposte, siamo ben lieti e lieti di accettarle. Valerio Caldieri è un romanziere che ho conosciuto ormai 4 anni fa, 5 anni fa, usciva Il teorema dell'incompletezza, un libro premiato che ha avuto il premio Calvino e pubblicato a Feltrinelli su una 100 celle degli anni 70, un racconto anche molto espanso. Che ci ha fatto, e poi Valerio ci ha fatto aspettare tanto per fare non uno ma bensì due libri. Ha pubblicato in primavera Le Furie per Feltrinelli, ma noi l'abbiamo chiamato per È così che ci appartiene il mondo, Genova 2001, caserma di Bolzaneto. E lo chiamiamo perché lui in quella caserma c'è stato e racconta dopo tanto tempo quello che ha significato per lui essere là dentro. Valerio, come mai sono passati 20 anni? Che bisogno c'è stato di questo tempo per metabolizzare, se è stato possibile poi metabolizzare quello che è successo dentro quella caserma? E sono passati 20 anni. Innanzitutto ciao a tutte e tutti, e è bellissimo stare a Radio Onda Rossa, e prendo tempo per non rispondere direttamente alla domanda. No, sono passati 20 anni perché evidentemente sono, come dire, era un argomento difficile da affrontare, difficile da affrontare se non altro non in sede giudiziaria, ecco. Quindi andare, come dire, un po' nell'intimo di quello che è successo in quella caserma per me è stato molto più difficile che, come dire, ragionarci esclusivamente in maniera politica, ecco, cosa che tra l'altro secondo me era già stata fatta in una maniera molto chiara da compagni e compagni, da giornalisti, da reporter improvvisati. Quindi bene o male sappiamo quello che è successo all'interno della caserma Bolzaneto, sappiamo quello che è successo all'interno della caserma Diaz. Quello che ho cercato di fare io è prendere una via un po' più sghemba, un po' più laterale, per far emergere delle cose che erano, come dire, più misteriose che politiche, ecco. Cioè, quindi la parte inquietante di quello che è successo là dentro. Ed è una parte inquietante che tu affronti anche attraverso il racconto di un suono. Quando tu ci parli di Bolzaneto, uno può immaginare delle urla, può immaginare delle provocazioni, ma tu non ricordi le urla, tu ricordi le risate. No, esatto, la parte più, come dire, quando siamo tutti tornati da Genova, da Bolzaneto, quello che penso che tutti abbiano sentito sono stati il rumore degli elicotteri, le urla, cioè che hanno, come dire, ci hanno accompagnato per giorni e per notti. Quello che però a me, come dire, con il passare del tempo è rimasto più vivo è stato questo suono delle risate, ovvero le risate che seguivano ai gesti, come dire, di sopraffazione, di umiliazione, alle botte che stavano all'interno della caserma di Bolzaneto. E quindi ricordo sia nei nostri confronti sia da lontano in altre celle gente che piangeva, gente che appunto urlava, e contemporaneamente il suono di queste risate che sovrastava il le risate ovviamente delle forze dell'ordine. Esatto, sì, non l'ho detto, le risate delle forze dell'ordine, ecco. Quindi questa risata è un po' il motivo che cerco di seguire nel libro, perché poi c'è anche la risata durante i processi, che è ancora più inquietante, perché è una risata fredda, la risata da parte delle forze degli avvocati, delle forze dell'ordine, che appunto questo l'ho riscontrato anche appunto in altri, per esempio leggevo l'intervista a Mark Howell o altri compagni, che durante appunto la deposizione, quando si giravano nei confronti del banco della difesa, degli avvocati, vedevano queste risatine nei loro confronti, e questo appunto era, come dire, è l'ennesimo, come dire, refrain all'interno del libro. Questa cosa della risata effettivamente aveva colpito molto anche me, e mi ha colpito tanto anche quando tu racconti di un uomo che era disabile ed era nella stessa tua cella, ma la cosa che mi ha colpito è il tuo senso di colpa, cioè tu più di ogni altra cosa racconti, cioè, non tanto la rabbia della violenza che egli stava subendo, che per carità sicuramente ci sarà stata, ma quanto tu possa esserti sentito in colpa rispetto al fatto che non sei intervenuto, che a me è sembrata una cosa molto strana, perché credo che in una situazione del genere la paralisi è la prima reazione. E allora, appunto, l'episodio, come dici te, è ai danni di questa persona disabile, M, che appunto all'epoca aveva 50 anni, e noi appunto siamo stati per diverse ore, quasi un giorno, in piedi, senza mangiare e senza bere, e per tutti era abbastanza complicato questa situazione, per M ancora di più, nel senso che aveva evidentemente una gamba artificiale, era una roba visibile, quindi non poteva essere sfuggito a nessuno, soprattutto, come dire, alle forze dell'ordine. E quello che succede è che appunto stare per 10 ore, 20 ore in piedi con una gamba sola è particolarmente, come dire, complicato. Quindi lui a un certo punto non ce la fa più e spiega anche il suo problema, e come risposta a questo ingresso da parte di quello che poi ho capito essere il gruppo operativo mobile, quindi questi tre armati enormi che entrano e lo massacrano. Oddio, non lo so se è una categoria, cioè, nel senso, tu hai usato il termine senso di colpa, io non la metterei in questa categoria, come dire, psicanalitica, nel senso che non è un discorso di colpa, però avviene questa cosa qua, cioè una persona disabile viene picchiata per 2-3 minuti con tutto, quindi con manganelli, calci, e tutti sono immobili, nel senso che ovviamente le guardie fuori di piantone sono immobili, e anche noi nelle celle siamo immobili, io sono immobile. Quello che come dici te, ok, nel senso che probabilmente, come dire, anche ex post, no? Io in maniera razionale, come dire, mi sono fornito gli alibi, nel senso che intervenire in quel momento, dopo che, come dire, già sei stato picchiato in un clima appunto di spray al peperoncino, pestaggi e umiliazioni varie, significa probabilmente fare entrare altre persone nella cella per, come dire, continuare la festa dal punto di vista loro. Però appunto quello che succede brutalmente, quello che rimane, è questo: una persona disabile viene picchiata e noi siamo fermi. E un po', e più che la colpa, è un po', non lo so, a me mi è sembrato un po' un qualcosa di rivelatorio, nel senso, succedono degli eventi che poi ti mettono a confronto con quello che sei veramente. Quindi io in quel momento ho sentito la mia parte vigliacca, cioè semplicemente io non sono intervenuto a difesa di una persona in difficoltà e appunto disabile. E quindi appunto è un po' la differenza tra l'atteggiamento manifesto, quindi quello che diciamo, la lotta, la solidarietà, e poi quello che pratichiamo. E in quel momento io non ho fatto quello che ho praticato, quindi non lo so, lo vedo più come un evento rivelatorio di quello che poi siamo come esseri umani. Anche se tu, diciamo, in quelle pagine, secondo me, riesci anche a toccare dei livelli di profondità, di umanità, anche di rivelazione, di autorivelazione che abbiamo visto, che abbiamo anche affrontato in, su questi microfoni. Penso a un'intervista che abbiamo fatto a, a Bekis un po' di tempo fa. Bekis, appunto, che è regista di Garage Olimpo, di Figli, di Icos, che noi abbiamo chiamato per La solitudine del sovversivo, che è il suo ultimo libro pubblicato da Wanda. E devo ammettere per... che a un certo punto a me ha ricordato molto anche la scena finale di 1984, quando Winston si trova di fronte alla gabbia col topo, e di fronte alla violenza fisica diventa veramente molto complesso riuscire a tenere fermo l'ideale. Quindi sono pagine anche molto dolorose, capisco anche l'emozione con la quale ne parli in questa sede, e c'è da dire che tra l'altro il tuo libro rivela anche tutta una serie di lati umani che non assolutamente l'autocompiacimento dell'autofiction. Molto spesso c'è anche una narrazione introspettiva e fine a se stessa, invece tu ci racconti anche particolari della tua vita, il lutto paterno per esempio, secondo me in maniera, ecco, molto, molto umana. La caratteristica di questo libro, È così che ci appartiene il mondo, Genova 2001, caserma di Bolzaneto, secondo me è questo grande mix fra un'ottima competenza per l'appunto anche di sociologia, di storia politica che tu citi, anche in maniera tutt'altro che accademica, molto, molto anche informale, una sfera personale, che è la sfera personale fuori della caserma, prima della caserma e dopo la caserma, e poi quello che succede all'interno della caserma. Valerio, noi ci stiamo accingendo adesso a chiudere l'intervista. Per chi è pensato questo libro? È pensato per la nostra generazione che Genova in qualche modo l'ha vissuta, che adesso l'ha ricordata, ricordiamo tutta una serie di pubblicazioni a riguardo, da Nessun rimorso di Supporto legale, che è una pubblicazione a fumetti che ricorda quei momenti. E chi dovrebbe leggerlo questo libro? Allora, io non so bene, perché poi quando inizi a scrivere non è che, almeno io non ho mai un obiettivo, però quello che penso è che bisognerebbe ragionare su Genova sia, come dire, chi c'è stato, sia chi politicamente ha appartenuto a quel movimento, senza, come dire, raccontarci questa magnifica storia del movimento, dei movimenti... tramandata, no? Ai più giovani, no? Come se fosse un monolite perfetto senza contraddizioni, cosa che, come dire, col ventennale è successo. Quindi è successo che si sono ripetute tipo scene: avevamo ragione noi, ve l'avevamo detto. Che secondo me a livello, come dire, politico sono un po', come dire, hanno, come dire, le polveri bagnate, mi viene solo questo termine qua. D'altro canto penso anche che Mi viene da pensare a forse una generazione più giovane che, un po' come noi probabilmente, come noi, come dire, abbiamo portato un po' il fardello dei magnifici degli anni 60 e 70, rischia un'altra volta, seppur in minore, di portarsi appresso questo fardello di Genova, no? E quindi le frasi, ai miei tempi, ai nostri tempi, noi abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto quello, no, nel senso che poi, appunto, come dico a un certo punto nel libro, in una nota, nel 1967 le riviste francesi parlavano dei giovani francesi come superficiali, stupidi, consumisti, quindi ecco, non ci ascoltate, anche se questa è una contraddizione, perché in realtà stanno ascoltando io che sto dicendo non ascoltare, però va bene. Ti faccio un'ultima domanda: in che modo ci appartiene il mondo? Il mondo ci appartiene, secondo me, con queste domande che non hanno risposta. Nel senso, quello che è avvenuto a Bolzaneto, quello che è avvenuto a Genova, sono delle situazioni che aprono anche degli spazi misteriosi. che non hanno risposta, come tutti, se vuoi, gli, come dire, le persone che lasciano una terra che sanno che non rivedranno mai, le persone che hanno subito un abuso sessuale. In questa maniera, secondo me, ci appartiene il mondo, con queste domande che molte volte non hanno risposta, che però secondo me bisogna continuare a fare, a interrogare questi misteri e diffidare un po' delle narrazioni autoconsolatorie. E a proposito di domande che non smetteremo mai di fare, te ne facciamo appunto quella consueta: se hai un libro da consigliarci che hai letto recentemente e che ti è piaciuto, e puoi consigliarlo a noi e anche a chi ci sta ascoltando. Ho letto, che mi è piaciuto molto, Dominio di Marco D'Eramo. Ok, è un consiglio che forse potremmo ascoltare anche nella una delle prossime puntate di Saggistica, magari anche voglia di parlarne tu stesso prossimamente. A questo punto guardo con fare richiedente DJ Zen e lei già capisce. Tanto per essere secchioni fino in fondo, diciamo che il libro di Valerio Callieri è Così che ci appartiene il mondo, Genova 2001, caserma di Bolzaneto, pubblicato da Feltrinelli. È un libro di 107 pagine e costa 12 euro. Secchioni. Adesso, e lo so, ogni tanto... Pensavo di essere io la più secchiona di questa trasmissione, però io ho gli appunti. E adesso, insieme al traduttore Damiano Abeni, vi parleremo della Notte delle Farfalle, che è un libro di Amy Bender, che è una scrittrice statunitense, e questo è il suo terzo romanzo, anche se ha pubblicato anche delle raccolte di racconti, ed è pubblicato da Minimum Fax, è uscito quest'anno, 325 pagine e al costo di 19 euro. Benvenuto Damiano. Buonasera. Buonasera. Mi sentite? Ti sentiamo perfettamente. Bene, bene. Allora, Damiano Abeni è traduttore di poesia dal 1973 e collabora con numerose case editrici e riviste letterarie, e per Minimum Fax ha tradotto, oltre ai vari libri di Amy Bender, ho visto anche la poesia di Bukowski, tra gli altri, e di Leonard Cohen. Esatto, e poi Ferlinghetti, Ginsberg, Corso. Abbiamo fatto un'antologia di poesia americana, la prima dopo tanti tanti anni, da quella della Pivano negli anni 60, insomma, un sacco di cose li abbiamo fatti con Minimum Fax, sì. Immagino che tu conosca abbastanza bene questa autrice, appunto perché hai tradotto anche gli altri romanzi, che sono Un segno invisibile mio e l'inconfondibile tristezza della torta al limone. E in questo caso il titolo del nuovo romanzo è La notte delle farfalle. Ti chiederei se ti va di descrivere in poche parole la sinossi di questo romanzo, anche se non è tanto facile. Esatto, per quello avete lasciato a me il compito ingrato. Allora, vediamo cosa dire. Intanto è un romanzo, secondo me, tutto al femminile. Ci sono quattro personaggi principali che sono due madri e due figlie. Le madri sono sorelle, le figlie sono cugine per nascita, ma la prima madre impazzisce, ha episodi psicotici molto forti, per cui la piccola figlia si chiama Francie, viene di fatto adottata dalla sorella della mamma. Questo evento è chiaramente traumatico, avviene nelle primissime pagine. Il libro si apre con un bellissimo e secchissimo e tristissimo diario telefonico tra le due sorelle, che poi coinvolgono anche la bimba. E insomma, la bimba viene forzatamente strappata dalla famiglia già rotta, perché non c'è un padre, e spostata con un lungo viaggio da Portland a Los Angeles. La madre viene fondamentalmente internata, e questo è la base della storia. La vera storia è ritroviamo la bambina diventata donna, giovane donna, che di fatto analizza e rianalizza quegli eventi ripetutamente nella memoria, eventi che sono sia oggettivi che favolistici, perché appunto queste farfalle sono in realtà farfalle che stavano su un paralume, che poi lei trova in un bicchiere e se la beve, se la porta dentro, questa farfalla della prima notte di distacco della madre. E io direi che essenzialmente è una storia di ricostruzione del sé, ricostruzione proprio di una specie di genealogia personale, cercare di capire da dove si è venuti e come si è diventati quel che si è diventati, anche se appunto a una tenera età. E quindi è un romanzo in cui non ci sono molti avvenimenti, anche se ci sono molte cose che incuriosiscono il lettore, molte cose misteriose, molte cose magiche, ed è appunto un lungo viaggio di ricostruzione di memoria, e quindi di ricostruzione fondamentalmente dei motivi della propria psiche. Va tenuto conto che Amy Bender è figlia di un famoso psichiatra americano, e quindi c'è questa fortissima connotazione psicologica in generale, ma anche appunto con nel caso della madre patologie conclamate. E il libro, appunto, come anche il precedente, quello della torta al limone, ha una grande connotazione magica e fa un po' da specchio alla torta al limone. Là sì, perché c'è sempre questo rapporto con la famiglia, che certo, diciamo, è tutta la vita della protagonista. Esatto. E quello che dicevi anche tu, appunto, avevo letto anch'io che il padre dell'autrice è un noto psichiatra, e c'è una parte nel libro che, diciamo, tutto il libro, ma soprattutto una parte del libro che ricorda proprio le sedute di psicoterapia, ma miste a sedute sciamaniche, perché la protagonista monta una tenda sul suo terrazzo e ogni mattina, esatto, entra nella tenda e ricorda, esatto. Il libro è tutto un ricordo. Sì, ricorda o cerca di ricordare, quindi anche il fascino del libro sta nel dipingere bene quella che è un'esperienza comune, di sicuro è mia, ma penso che sia di tante persone. Quando cerchiamo di ricordare, alcuni ricordi sono nitidi, altri veramente li dobbiamo ricostruire in modo quasi congetturale, in modo, che ne so, borghesiano, appoggiandoci appunto a punti fermi, cercando di ricostruire sensazioni, situazioni, luoghi, persone. Quindi è veramente, secondo me, un romanzo affascinante. Anche la parte magica, che fa parte poi in realtà di tutti i libri di Amy Bender, in questo libro è, secondo me, un po' più particolare rispetto alla Torta al limone, ad esempio, dove la protagonista in quel caso aveva una sorta di superpotere in cui dal quale traeva le emozioni dal cibo che mangiava. In questo caso gli eventi magici sono inspiegati, inspiegabili, quasi inutili. Lei tenta di trovare un senso in quello che le è successo, sperando di ritrovare se stessa, ma forse in fondo non c'è una spiegazione, è forse anche un, come dire, una ricerca dell'accettazione di quello che si è e che si è vissuto. Certo, però secondo me va anche ricordato che nella buona scrittura, nella grande scrittura, ogni segno, ogni immagine ha molteplici valori, per cui un conto appunto è cercare di spiegare la lettera, un altro conto è cercare di capire in effetti cosa sta succedendo. Cioè abbiamo tutti, credo, spero, momenti, chiamiamoli di magia, chiamiamoli di sensazioni o esperienze che sono spiegabili solo fino a un certo punto, sia perché sono inattese, sia perché sono impensate, sia perché sono impensabili, e quindi questi oggetti, la farfalla, c'è una rosa secca, c'è uno scarabeo che esce da un foglio di scuola, da un esercizio di un bambino, e diventano oggetti, credo che segnino appunto la possibilità di rompere i confini tra noi e l'oggettività che ci circonda. Nell'altro libro la cosa importante, è vero che la bambina, quello che succedeva esattamente, che lei nel cibo sentiva i sentimenti delle persone che avevano preparato quel cibo, e quindi per me quella era una grossa storia sul problema di essere persone sensibili. Sì, sì. E come tu hai giustamente ricordato, era una storia che coinvolgeva la famiglia. Piano piano si capisce che tutta la famiglia di quella bambina ha sensazioni di qualche tipo, e senza voler, come si dice, rovinare la lettura a chi non ha ancora letto il libro, ma esiste in quel libro una transizione dalla persona all'oggetto, e questo libro fa invece da specchio, perché qui abbiamo la trasformazione dell'oggetto in organismo, farfalla, scarabeo o rosa, e quindi secondo me il segno è veramente questo, cioè del cercare, non cercare, ma di vivere queste esperienze che non sono totalmente comprensibili e spiegabili, cercando in qualche misura di spiegarsele, ma fondamentalmente vivendole. E questo lo trovo affascinante. Alcuni critici questa ricerca del sé, questa ricerca della propria storia, l'hanno definita prustiana, critici statunitensi. Uh-huh. Ma qui veramente non c'è nostalgia, c'è molto dolore, perché appunto gli eventi vissuti dalla bimba sono terribilmente traumatici, la madre stessa aveva vissuto non sorprendentemente eventi traumatici. Sì, sì. Ma la sua non è una ricerca nostalgica, non è una ricerca, è una ricerca direi quasi scientifica, puntigliosa, cruciale. Il tempo che lei passa nella tenda è molto interessante, anche l'idea della tenda, cioè, quanti di voi ascoltatori, quanti di noi qui al radio abbiamo avuto l'esperienza di passare un po' di tempo in una tenda, una giornata, una notte, delle notti, delle vacanze, dei viaggi? La tenda è una cosa magica, perché ti dà la sensazione di ti dà la sensazione, ti dà uno spazio definito, ti dà uno spazio conchiuso, ma proprio per la sua, come si dice, caducità, effimerità, non so se dice, il suo essere effimero, si monta, si smonta, e la sua tenuità, fatta di tessuto anche le più resistenti, ti dà la sensazione. Infatti è bellissimo perché questa tenda la costruiscono. Tu stai al chiuso, ma sei in contatto con il fuori, quindi anche questo è un altro dei simboli forti, secondo me, che ci deve mettere sulla traccia del esaminare questa soglia, che è una soglia mobile, non è un muro, una porta, un confine. Credo che questo voglia dire, credo che sia una buona lezione per tutti noi, cioè viviamo molto schematicamente, ciascuno secondo gli schemi che crede più opportuni, o se, insomma quelli che ha a disposizione, ma in realtà dovremmo stare attenti che questi schemi non siano in realtà barriere tra di noi e addirittura tra parti di noi stessi. È una bella storia. È una bella storia, è anche scritta in un modo molto particolare. Infatti mi hai preceduto parlando dell'inizio del libro, ma ci sono questi dialoghi, sia appunto proprio le prime pagine di questo romanzo, ma c'è anche un altro dialogo secondo me molto interessante della protagonista quando, insomma, già grande, prova ad andare dal neurologo per spiegargli quello che le è successo. E queste due parti in particolare mi sono apparse come poesie. Poi quando ho visto, insomma, che il traduttore, cioè te, era traduttore di poesia, non so, mi è venuta una sorta di illuminazione. Non so com'è stato per te tradurre questo romanzo anche rispetto al lavoro poetico che già affronti. Sì, allora potrei rubarvi tutta la nottata, ma vi dirò che io traduco poca prosa e a volte mi trovo a disagio con la prosa, mi trovo a disagio perché in molta prosa trovo materiale innecessario. Un pregio della poesia è che tutto quello che c'è, sillaba, lettera, suono, accento, allitterazioni, tutto conta, al di là del significato o prima del significato, e molto spesso nella vera poesia la forma, il suono e il ritmo dettano il significato, che se ne dica. E queste cose, come hai detto giustamente, ci sono nel libro, forse non costantemente, alcuni l'hanno criticato come diseguale, ma secondo me deve essere diseguale. Cioè, immaginatevi una giovane donna che è cresciuta, diciamo, all'ombra di questo trauma gigantesco e entra e esce dalla possibilità di ricordare e accettare quello che ricorda. Quindi la disomogeneità della scrittura, secondo me, è formalmente, non dico accettabile, ma è un ottimo aspetto formale di questo libro. E per il resto è stato un libro difficile da tradurre, proprio perché spesso corre sui binari della poesia, ma sempre sta su quello che ho già detto più volte, su questa analiticità, su questa essenzialità. Cioè Magrelli dice, quando il gabbiano arriva al tramonto la poesia muore, ma molti pensano che la poesia sia questo, più o meno grandi sensazioni, grandi dispiaceri, grandi nostalgie, grandi amori, va benissimo, ma non regge se non c'è la scrittura, non regge se non c'è la scrittura. Qui la scrittura c'è dall'inizio alla fine e proprio per questo è stato, non dico difficile, però insomma ha richiesto tanta attenzione e cura il cercare di rendere questi ritmi, questi passi, appunto dalle prime pagine incalzanti, questa telefonata straziante tra le sorelle con va di mezzo anche la ragazzina, ai lunghi ricordi, al viaggio in treno tra Portland e Los Angeles, con altre apparizioni strane, questi personaggi che chiedono pezzi di carta, biglietti che non esistono. Quindi sì, è stata una buona esperienza. Mi ha, devo dire che la vivo meglio adesso che l'ho fatto, mentre ci lavoravo, e quelli che mi stanno attorno lo sanno, non ero particolarmente contento, proprio perché non ero particolarmente sicuro che si potessero rendere queste cose. Ora, insomma, pare che sia venuto bene. Sì, anche la struttura è molto strana, cioè oggi vedevo un'intervista proprio dell'autrice, anche lei diciamo non si riusciva a spiegare bene questo tipo di struttura che poi era venuto fuori, un po' dava la colpa al fatto che ha due bambini piccoli e che quindi quando aveva tempo scriveva, e quindi non so se questo frazionare o scrivere nei momenti liberi che sono magari pochissimi ha creato anche questo tipo di narrazione, però io lo trovo molto diverso dal passato, da quello che ha scritto precedentemente, ma molto interessante, più difficile forse appunto. No, quella potrebbe essere una spiegazione. Io tra l'altro traduco da tanto tanto tempo, dagli anni delle superiori diciamo, ma più o meno per divertimento. Io faccio tutt'altro lavoro, quindi anch'io lavoro a spizzichi e bocconi, al mattino in metropolitana, ai weekend quando non sono troppo stanco, la sera se non crollo, quindi lo capisco benissimo. Ma l'altra regola più generale, qui cito un poeta che amico, che ho molto amato, che è Mark Strand, di cui ho tradotto tanto, praticamente tutto direi, e lui diceva che la cosa bella della scrittura e della poesia è che quando tu cominci a scrivere puoi avere appunto tutti i programmi che vuoi, ma la scrittura funziona quando in qualche misura ti sfugge. Lui diceva: se io controllassi tutto quello che scrivo, la mia scrittura dipenderebbe da me, non potrebbe essere migliore di come sono io. Io non sono granché come persona. Invece, quando il meccanismo della scrittura, e può essere questo, può essere una cosa banale come il fatto che non hai tempo e devi arrangiarti a mettere insieme le cose come vengono, quando vengono e quando puoi metterle insieme, prende uno spirito, una forma sua che di fatto in parte sfugge all'artefice, come diceva Borges sempre, a Sedor, a chi fa. Ricordiamoci che poeta vuol dire facitore, viene dal greco poieo. La poesia è buffo da dire, ma proprio perché la gente pensa ai tramonti, al vento tra le fronde eccetera, ma l'espressione scritta che tende più direttamente al concreto. Per cui sì, a me fa molto piacere che almeno quei passaggi, secondo me ce ne sono altri, siano stati riconosciuti come passaggi di poesia. Spesso la buona, per me, però appunto io ho una visione piuttosto parziale e distorta della prosa, la buona prosa tocca o entra dentro i territori della poesia. Non lo so, possiamo fare i nomi che volete, ma L'Ulisse per me di Joyce è una poesia, tutto da cima a fondo, che se ne dica, lui l'ha costruito con come se fosse una poesia, che poi è una poesia di centinaia e centinaia di pagine, ma per me è una poesia. Quindi insomma, sono contento che abbiate visto queste cose nel libro. E noi siamo molto contenti di averne potuto parlare con te, e ti farei al volo proprio la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, finale. Ti chiediamo se ti va di consigliarci un libro che ti è piaciuto, può essere anche chiaramente un libro di poesia a questo punto. Sì, e rimango direi tra quello che ho tradotto io, perché sono quelli che conosco meglio necessariamente. Ne posso dire due o tre. Ho detto prima, ho fatto tutte le poesie di Mark Strand, quello uscito negli Oscar Baobab Mondadori due o tre anni fa. È una persona che amo tantissimo, e e penso che quello sia un gran libro. Di dimensioni diciamo più ridotte c'è un grande amico di Mark Stanks, si chiama Charles Wright, e di lui abbiamo fatto un libro per Donzelli che è intitolato Italia, perché Charles Wright ha cominciato a scrivere da ragazzo in Italia quando era militare a Verona, e praticamente in tutti i suoi libri ha inserito omaggi all'Italia, agli scrittori italiani, ai luoghi, ai dipinti, agli artisti, ai bar, c'è il bar Giamaica, c'è le Giubbe Rosse, ci sono i posti di Verona, eccetera. E quindi è una specie di guida sentimentale, scegliendo invece di fare il meglio di, abbiamo detto, facciamo le poesie italiane. Questo per Donzelli. E poi un altro recente che è un gran libro, e anche quella, se parliamo di difficoltà e tra virgolette sfide, che è una parola che non mi piace, è John Ashbery, forse uno dei due o tre più grandi poeti del Novecento statunitense. Il libro Autoritratto entro uno specchio convesso, che è basato sul dipinto, la poesia che dà il titolo al libro è basata sul dipinto di Parmigianino, e questo è uscito da Bompiani un paio d'anni fa, nel 2019. Damiano, io non so come ringraziarti veramente, ci segniamo tutto, perché qua di poesia non se n'è mai parlato, forse molto poco, no? Giulia Caminito ogni tanto ne ha fatte di puntate sulla poesia. Sì, ma allora non si legge per pigrizia e non si legge perché ci si cerca chissà cosa, in realtà va letta e va goduta. Io lo dico sempre, se tu vai al mare e guardi il mare, cioè ti interessa sapere quanto è profondo, qual è la lunghezza d'onda del blu che vedi, cioè cosa devi sapere per godertelo? Niente, guardi e se non ti piace ti giri e vai al bar. E lo stesso con la poesia, senza pigrizia, senza paura, uno apre una pagina, se la legge e secondo me se la gode. La buona poesia è una gran cosa e ha il pregio di darti molto in mezzo minuto. Poi leggetevi i sonetti del Belli, 14 versi, in media ci si mette tra i 28 e 32 secondi a leggerlo e un sonetto del Belli vi fa contenti per tutta la settimana. Damiano, ti ringraziamo tantissimo, dobbiamo purtroppo interrompere questa telefonata, io parlerei per altre 10 ore, però ricordiamo che abbiamo parlato quando di... Quando volete. Grazie. Ricordiamo che abbiamo parlato di La notte delle farfalle di Amy Bender, pubblicato da Minimum Fax, 325 pagine, 19 euro. Ne abbiamo parlato con uno dei traduttori, perché in realtà il libro è tradotto insieme a Moira Egan, Damiano Abeni. Grazie tante, ciao, buona serata. Un saluto, buona continuazione a tutti, di nuovo. You know it won't be long until the end. Let the spotlight shine on me again. Back out in the middle of your life, just like a back out in the middle of the night. Ecco qua, e finalmente abbiamo con noi Giulia Caminito. Buonasera Giulia. Ciao, ciao, buonasera. Giulia, guarda, alla fine questo ribaltamento della scaletta è stato veramente propizio, perché ti volevamo introdurre con questa botta di Mediterraneo di Johnny Russo, invece grazie ai Turnstile arriviamo con una roba molto più grintosa, che secondo me descrive molto meglio quello che è stato il tuo ultimo romanzo. Non siamo qui però a parlare proprio del tuo ultimo romanzo, dato che l'abbiamo già fatto. Ci piacerebbe dirlo in anteprima, cioè in realtà tu ci avevi tradito con un'altra trasmissione radio, nostro competitor, ma sopporteremo questo smacco. E sei qua perché ti volevamo un po' chiedere com'era andato quest'anno, perché Giulia è stata sia finalista al premio Strega che al premio Campiello, dove poi appunto ha ottenuto il riconoscimento principale, cioè hai vinto il Campiello. Com'è andata? C'è stata una differenza fra questi due premi? Come li hai vissuti? Lo so che è una domanda estremamente vasta, però raccontaci un po' quello che puoi raccontare. Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte, grazie, scusate il ritardo, questo ritardo già vi fa immaginare in che situazione mentale io sto sempre un po' fuori fase. E, è stato un anno abbastanza insensato, abbastanza assurdo, abbastanza veloce, scalmanato e anche bellissimo ovviamente per tante soddisfazioni, tante cose che sono successe, e dall'altra parte anche un po' oscuro, nel senso un po' bizzarro, in cui non ho saputo bene come decodificare un po', mi sono sentita sempre certe volte che non capivo neanche se stava succedendo effettivamente a me, al libro, certe cose, cioè dissociata, in qualche momento sono stata molto dissociata. Per essere rapida, i due premi sono molto diversi, il meccanismo è molto diverso, come forse saprete. Però forse essendo una trasmissione che si occupa anche dei meccanismi della letteratura e dell'editoria, se ce li riassumi fa bene a tutti. Ve li riassumo rapidamente. Il premio Strega funziona così: esiste una giuria composta da più o meno 600 o poco più elementi, 400 circa di questi sono i famosi amici e amiche della domenica, che sono, diciamo, editori, scrittori, scrittrici, giornalisti, diciamo rappresentativi, una rappresentazione vasta della società letteraria, però ci sono anche dei registi, alcuni attori, nonché tutti gli ex sindaci di Roma, quindi Alemanno ancora è amico da domenica, vi volevo dare questa notizia. Ma ti ha votato? Comunque, questo lo possiamo sapere, però non ho indagato. E quindi c'è tutta questa pletora, più ci sono dei circoli le biblioteche di Roma con i circoli di lettura, più gli istituti di cultura all'estero. E quindi c'è questa, quindi è una giuria nota, diciamo, non del tutto, però quasi nota. Queste persone possono indicare dei titoli che vengono candidati. Da queste candidature, che quest'anno erano più di 60, il comitato direttivo, composto da 10 persone circa, sceglie i 12 che sono i candidati ufficiali. Da quelli si vota. Tutti questi 600 votano e si passa dai 12 ai 5 e dai 5 a 1. Invece il Campiello funziona in un altro modo. Arrivano, cioè quasi tutta la narrativa italiana di quell'anno è candidata, precandidata al Campiello, cioè segnalata o che si autosegnala. E poi c'è anche lì un comitato, una giuria di letterati che sceglie i 5 titoli che partecipano. A quel punto però sono 300 anonimi lettori e lettrici in tutta Italia, decisi tramite l'Istat, che votano del passaggio da 5 a 1. E sono anonimi. Pena il fatto, se dicono che sono votanti del Campiello, pena la morte civile. Quindi i due meccanismi sono diversi. E psicologicamente sono due premi molto diversi, perché il premio Strega, secondo me, è psicologicamente molto molto tosto da affrontare, cioè uno dall'esterno lo vede e capisce che ci sono di mezzo sempre dei meccanismi abbastanza impegnativi, però poi standoci dentro è ancora più impegnativo, ma perché è il premio con il riconoscimento più forte, perché di mezzo ci stanno tutti, anche appunto quelli che noi consideriamo società letteraria che vota, perché è lungo il processo, perché comunque ci stanno di mezzo, cioè di mezzo tanto, per cui uno si ritrova in delle situazioni anche di pena, di stress. Cioè, anche da un punto di vista cronologico, quando si svolgono questi due premi? Ma allora, lo strega più o meno si inizia a parlarne, a candidare, secondo me, adesso io non vorrei dire fesserie, ma da gennaio-febbraio e a inizio marzo si sanno i 12 più o meno. Poi la cinquina c'è a giugno e a luglio c'è invece la prima settimana di luglio c'è il vincitore, mentre invece il campiello credo che più o meno a maggio, verso fine maggio, ci sia i 5 e poi a settembre c'è l'1, quindi in realtà c'è più tempo, però il tempo del campiello è un tempo più sereno per quanto possibile, cioè è il tempo del tour in cui tu devi girare con gli altri 5, ma sapendo, cioè sei in un clima più disteso secondo me, perché non sai chi voterà, non c'è sentore di chi potrebbe o non potrebbe vincere, siete tutti uguali, diciamo, in questa situazione. Lo strega c'ha più passaggi, c'ha di mezzo la pressione, c'è molta più pressione, c'è molta più inquietudine tra chi partecipa e al premio, c'è molta più inquietudine tra chi viene escluso, tra l'altro, quindi c'è sempre molta polemica sul dentro e il fuori tra i 12 e i 5, per esempio. Quel passaggio lì quest'anno è stato particolarmente pesante per me, per esempio, cioè perché è stato strano per me entrare, è stato strano che altre persone non siano entrate, cioè si genera proprio logicamente un'aspettativa e è una concentrazione proprio, per cui è molto, cioè, senti proprio la pressione di quello che sta succedendo, che col campiello, diciamo, è più impegnativa la serata finale evidentemente, però il resto del tempo è molto meno, il clima secondo me è un po' più disteso rispetto alle aspettative, perché ti senti come rifiutato, cioè lo strega secondo me ti senti anche un po' rifiutato da tutta una serie di colleghi, tutta una serie di persone dell'editoria, cioè non è un pubblico di lettori e lettrici anonimi che sta votando, ma è le persone che si occupano di libri a dei livelli che noi, diciamo, consideriamo appunto di società letteraria, quindi c'è una pressione rispetto a questo giudizio secondo me un po' più forte, questa è la sensazione che ho avuto io. Ma quando tu hai messo la parola fine al tuo romanzo, che immagino sia stato un paio di anni fa, prima di cominciare la lavorazione, l'editing, così, ti saresti aspettato che l'acqua del lago arrivasse a bagnare così tanto il pubblico italiano? No, ma proprio zero, anche perché non è, cioè tra i tre libri che ho scritto, diciamo, non è il mio preferito. È un libro che io, anche le persone che mi conoscono, insomma, fino all'ultimo ero veramente molto in dubbio, ma ero in dubbio anche perché è uscito nell'inizio del 2021 e il 2020 è stato un anno che, insomma, sappiamo benissimo che anno è stato, in cui io mi sono proprio domandata se avesse senso pubblicare un libro, se avesse senso proporre una storia di quel tipo, tra l'altro che aveva un finale per niente risolutivo, per niente speranzoso. E quindi, e poi è un libro sul contemporaneo, io venivo da dei romanzi storici in cui, insomma, a me sembra sempre che la storia abbia quell'epicità in più, quell'interesse in più, quella, non lo so, invece il contemporaneo comunque continua a sembrarmi più banale, però in qualche modo è anche fertile perché evidentemente incontra poi la voglia di lettura di più persone con certi temi, con certi tentativi, però ovviamente ma non lo pensavo neanche lontanamente, ma infatti continua a risultare, ma con i libri è così, cioè ci sono dei libri meravigliosi che nessuno legge, poi ci sono dei libri come il mio che magari hanno anche la fortuna di incrociare determinati percorsi, cioè non... Vabbè, adesso non devi andare a caccia di complimenti qua da noi, sai bene che a noi il tuo libro è piaciuto molto e che riconosciamo, tra l'altro, uno, aver finalmente reso giustizia a quella che è una delle capitali dell'immaginario europeo, cioè Anguilla Sabazia, che non era mai stata, credo, citata in un libro o insomma mai resa così centrale dalla letteratura. Ma è un libro che affronta anche le tematiche delle case popolari, è un libro che ha tanta rabbia all'interno. Antonio è una delle figure, cioè l'incipit del libro di Giulia, per chi non lo avesse letto, è uno degli incipit, a nostro avviso, mi rendo in questo momento voce collettiva di Tabula Rasa, è un incipit di grandissima potenza e in qualche modo va a chiudere perfettamente questa puntata, dove appunto Valerio Caglieri ci raccontava di Bolzaneto completo e poi ci mette la sua parte di verità, la sua parte di umanità, di la sua parte personale. E così anche nell'acqua del lago non è mai dolce, Giulia a un certo punto tira anche le somme di quello che è la sua esperienza biografica di pendolare, anche nei ricordi dell'adolescenza. Non possiamo usare la parola prustiana perché già un ascoltatore ci ha fatto notare che è stata usata questa volta all'interno della puntata, e quindi non possiamo dire prustiano più di una volta a puntata a tabula rasa. L'hai già detto altre due volte. Lo so, posso dire ancora una volta prustiano, ecco, non lo ripeterò fino alla fine quest'oggi. Giulia, guarda, noi abbiamo cominciato con un po' di ritardo, quindi ti ringraziamo molto di essere stata qui con noi. Speriamo di averti presto in qualsiasi forma tu voglia, sai come ci sono grandi cuori in questo momento che vengono visualizzati qua in studio da noi, e come al solito ti tocca però la domanda finale, ovvero: vuoi consigliare a chi ci sta ascoltando un libro che hai letto recentemente e ti è piaciuto molto? Allora, io spero di tornare da voi quanto prima in carne e ossa, soprattutto camminando eretta sulle mie gambe. Io vi consiglio Il libro del sangue di Matteo Trevisani. Allora, Il libro del sangue di Matteo Trevisani, che va, credo che sia ormai il terzo libro di Matteo Trevisani, correggi? È il terzo libro. Il primo libro è il libro dei fulmini, poi c'è Il libro del sole, e questo chiude la trilogia. Atlantide, quindi ancora una volta pubblicato da Atlantide. Grazie mille Giulia, e appunto a presto, e ti lasciamo con una traccia di DJ Zen che senz'altro ti colpirà come sempre. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smokes, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no wine, ain't got no money, tocca a me? Vai. Ah no, vabbè, la chiudiamo qua, adesso siamo con un po' di ritardo, 10 minuti di ritardo, abbiamo cominciato con 7 di ritardo, quindi tutto sommato chi ci ha ascoltato distorbita la sua solita ora di tabula rasa, però ricordiamo che quest'oggi abbiamo parlato prima di tutto con Valerio Caglieri, e ne abbiamo raccontato del suo libro non romanzo, scusate, E così che ci appartiene il mondo, Genova 2001, caserma di Bolzaneto. Poi abbiamo parlato di un romanzo di Amy Bender con il suo traduttore Damiano Abeni, La notte delle farfalle, Minimum Fax 2021, 325 pagine, 19 euro. Ah, a proposito di secchionate, volevo dire questo, che mentre parlava Damiano mi venne in mente che c'è un libro molto bello di Luca Briasco che si chiama Americana, libri, autori, storie dell'America contemporanea, dove tra l'altro c'è all'interno anche Amy Bender, ed è un libro, ne discutevamo anche con Valerio Callieri, ed è un libro che ti dà una bellissima panoramica su quelli che sono autori e autrici contemporanee. È un'antologia di racconti? No, non è un'antologia, Briasco fa una... fa 40 schede su quelli che sono i libri per lui più rappresentativi dell'America contemporanea. Quindi c'è una bellissima introduzione, tra l'altro, del conflitto fra Foster Wallace e Franzen, appunto, c'è una roba proprio dove volano quelli che tu definiresti i calci volanti. E... no, è molto, molto interessante. Tu sei per Wallace o per Franzen? Vabbè, adesso non è che facciamo questo. non si fa, dicono queste cose. Okay, a chi vuoi più bene, anch'io. Vabbè, e poi abbiamo parlato con Giulia. Che bello. Che bella. No, che bello che abbiamo parlato con Giulia. No, che bella Giulia. Ah, che bella anche Giulia. E con Giulia in realtà non abbiamo parlato dei suoi romanzi, o meglio abbiamo parlato di quella che è stata la sua esperienza al Premio Strega, al Premio Campiello, dove appunto lei ha vinto il Premio Campiello con L'acqua del lago non è mai dolce, che ha provato a bistrattare come un libro non meraviglioso. Durante... Invece lo è. Invece lo è. Ricordiamo comunque anche altri libri di Giulia, anche tra l'altro sono stati anche premiati precedenti, quindi Giulia è inutile che fa tutta sta scena. E i precedenti erano La Grande A, che ha vinto il premio Berta, Bagutta, Brancati, queste cose ovviamente non le so a memoria ma le leggo da Wikipedia, e poi anche Un giorno verrà, che ha vinto il premio Fiesole. Ricordiamo che L'acqua del lago non è mai dolce è pubblicato da Bompiani, come gli altri, come gli altri. E quindi ci diciamo arrivederci alla prossima puntata, dove parleremo appunto di saggisti e la grande novità di quest'anno. Ma prima di chiudere diamo la parola a DJ Zen, che ci racconta cosa ci ha fatto ascoltare quest'oggi. Quest'oggi abbiamo sentito le voci di Nina Simone, della grandissima Juni Russo, e le chitarre dei Turnstile e dei Quicksand. E quest'ultimi hanno pubblicato, fatto uscire insomma l'ultimo disco da relativamente poco, e ci tengo a dire che sia il video musicale del primo singolo che la copertina, mi sembra di dire correttamente, del vinile siano stati disegnati dal nostro amatissimo Tetsunari Tawaraya, che è un illustratore giapponese che consiglio a tutti di recuperare qualora non fosse conosciuto. E niente, ci sentiamo. Certo, ma a proposito di amatissimi, facciamo anche un saluto agli altri e le altre della redazione che stanno ascoltando in maniera ossequiosa mentre guardano la partita della Roma, che sembra stia andando tra l'altro anche molto bene. Ah, no, ho controllato. Mi dicono, e niente. Ma si può dire che ancora non è finita? No, non oddio, si può dire metti niente. Il porta adesso... sfiga, ma vabbè, ci vediamo giovedì prossimo, anzi sentiamo, ciao.